Anch'io sento una fava. È infilato male, abbassa il volume. No, mi è infilato male, questo c'è. Ragazzi, non c'è più? Sì. No, non si sente. Prova a parlare del microfono. No, non si accende il microfono. Prova a parlare del tuo. Così funziona. Sa. Ma questo non funziona proprio. Ma ho alzato il microfono sbagliato, scusate. Dio cielo. Sa, prova. Il grillo me sa scordato il dash e pulillo e tutti i giorni guardo il cielo e mi dico cazzo manco oggi l'ho pulito. Quanto mi piacerebbe lavarlo su e giù sempre più su. Oggi mi puzza il grillo, e mica poco, l'ho lavato proprio con perlana, infatti c'avevo una lana. E oggi mi puzza il grillo, ma mica poco, oh? Ci vorrei mettere un po' di coca? Chissà, magari si addrizza. Ma boh, dai, è meglio lasciar stare, è meglio andare a scopare. Oggi mi puzza il grillo. Sì, mi puzza proprio tanto, oh? Mi piacerebbe dargli un po' di varichina, ma c'ho paura di buttare. Vabbè, pan, continuiamo. Tanto quello che si rovina se sa qual è, no? Quasi quasi me lavo pure il bucio del culo, chissà, forse riesco a tagliare piano piano e a farlo venire mano a mano, bene, mano a mano, bene, mano a mano, bene, mano a mano, bene, mano a mano, bene, bene. Sì, laverò le ascelle, c'ho certe bruscelle, mi laverò il cotosso, lo vedo proprio qui, è proprio un gran bel tosso, merda, sì, è proprio di merda. Oh.

stavo di un altro testo. Fanno tanti indovini. 10 minuti, 10 minuti, vai. Vabbè, raga, ma mai gli indovini. Ma al B non ce l'hai, devi? One, two, three, one, two, three. No. Allora sì, guarda, l'importante è che ne attaccano. Così. Allora com'era? Ti ricordi? Era così. Allora vai. Pronti, due tu, due insieme e poi. No, due insieme un po'. Di più di due. Guarda, 84 insieme. Ma due sono? 6 insieme. Cosa spingi? Spingi com'è? Ah. No, non mi ricordo. Due nel basso. E dopo quante ne fate insieme? 4. 6. Ma sei tante so. 6 in basso. 6 no. Dopo un po' di volte, per farlo in basso. Quando lui dopo fare la parte di Lorenzo, Riato Parrini, ma tu sai che ti sei perso adesso 10 minuti ininterrotti. 10 minuti interrotti di puro blues, di pura improvvisazione. Se ci siamo registrati tutti! Guardate qui come sono! È tutta un'altra cosa! Stefano! Come? Stefano, dico come suona. Ci sarebbe da spaccare la gana schiena la chitarra. La chitarra, via Gini. Io ci ho fatto un cazzo da parte. Te la fai come un ragazzo di pare quando te parli. Ma sei ferretto. Oh, ma da bere a parte l'acqua non c'è più niente. A parte sta mal registrata. Sì, lascia. È da 60 la cassetta, sì, dude. escaping from the ceiling, but to skate with fish, cause they haven't any feeling. Something in the way, something. Thank you. job by the door. What is it for? All the long time. cercamo questo qui, eh?